e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, sarà pure un caso, però da quando noi andiamo in onda insieme, a settembre già celebreremo il nostro quarto anniversario. Non so che festa potremmo sempre fare. Sempre più spedite verso il settimo, chissà qua che cosa ci aspetta. Beh, allora, da quando andiamo in onda insieme, gli italiani sono sempre più cuore e denari. E lo conferma anche una delle prime indagini del portale italiani.coop, che è il nuovo portale che abbiamo presentato in anteprima proprio 2 giorni fa qui nel nostro programma. E sembra che gli italiani, ridimensionati in tutte le loro abitudini dalla crisi, siano tornati un po' alle origini, rispolverando i valori storici che li caratterizzano. E quindi non è sempre solo un modo di dire, l'importante è la salute, l'abbiamo detto tante volte, la salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Ecco, anche fare soldi comincia a passare un po' in secondo piano. Sottolineerei anche se, il po', ecco, con la matita blu. Anche perché le prospettive di riuscirci sono sempre meno, no? E comunque gli italiani vorrebbero anche diventare genitori, quindi c'è questa ancora idea della genitorialità, e accarezzano l'idea di cambiare la loro dieta e di abbracciare uno stile privo di carne, quindi vegetariano. Insomma, in questo rapporto ce ne sono tanti di spunti che potremmo rubacchiare anche prossimamente per approfondirli appunto nel nostro programma. Sono linee di tendenza che mettono a fuoco il ritratto della nuova stirpe italica che emerge appunto proprio dall'indagine Un secolo di italiani realizzata da Coop in occasione della presentazione di italiani.coop. Abbiamo anticipato appunto, come vi ricordavo poco fa, 2 giorni fa, uno strumento di analisi e ricerca che da ieri è disponibile in rete. Noi oggi, come e c'è ogni il podcast giorno, naturalmente che possono andare, puntata. Esatto. Noi oggi, come ogni giorno, continuiamo a parlare invece della vita di tutti i giorni da tanti punti di vista. Siamo sempre in diretta da Montepulciano, ospiti di Luci sul Lavoro, e quindi continuiamo a parlare, a puntare anche noi i riflettori sul mondo del lavoro. In particolare oggi ci concentriamo nella prima parte sulla nuova via italiana che è stata individuata per promuovere le politiche attive per la ricerca del lavoro, e quindi vi rifaremo un punto della situazione sulla attività della nuova agenzia appunto nazionale per il lavoro, l'ANPAL, e quindi questo è un po' il tema di questa mattina. Fra poco vi presento i nostri ospiti, tu invece che cosa? Allora, che ieri cosa ci siamo occupati della nostra pelle con consigli e raccomandazioni per farci baciare dal sole, per guadagnare una bella abbronzatura in tutta sicurezza. Oggi sempre di sole parliamo, e in particolare degli effetti della luce. Questa è un po' la parola chiave, il fil rouge della nostra trasmissione, sui nostri occhi, che vanno come sempre protetti dall'invadenza della luce estiva diretto riflessa. Quindi restate con noi per raccontarci che effetto vi fa la luce intensa di questa stagione. I vostri occhi lacrimano, si arrossano, prudono, soffrite di fotofobia. Restate, parleremo naturalmente di occhiali da sole, di lenti a contatto e delle precauzioni da adottare per bambini e anziani, di come prevenire i fastidi più diffusi del periodo e di come affrontarli. Insomma, mi auguro di avervi illuminato sul menù della seconda parte di Cuore Denari, e quindi Deborah, andiamo. Partiamo velocemente sempre con uno sguardo sull'andamento dei mercati finanziari, che oggi, dopo una partenza un po' più volatile ed incerta, hanno con maggior decisione imboccato il territorio positivo, anche se con delle prestazioni miste, perché Parigi sale dello 0,23%, Francoforte un po' di più, guadagna 0,5 punto, Londra più cauta, più 0,20%, e oggi finalmente Milano si mette in luce con la miglior prestazione. Abbiamo un rialzo di 1,5 punti sul FTSE MIB, stanno spiccando il volo i titoli del settore bancario, che veramente stanno vivendo delle settimane difficilissime. Oggi recupera quasi 8 punti il Banco Popolare, la Popolare dell'Emilia Romagna più 6,5 punti, Intesa più 5, Generali più 4,5 punti, Unicredit più 4,5, Monte dei Paschi più 3 punti percentuali dopo l'intenso consiglio di amministrazione che si è svolto ieri sera e in cui si è discusso del piano per la cessione appunto di 10 miliardi di crediti inesigibili, e addirittura si parla di una chiusura di questa vendita entro almeno un paio di settimane, 10 miliardi di crediti in sofferenza. Quindi questo continua ad essere il tema del momento. Naturalmente i temi anche legati all'estate dell'incertezza dopo Brexit, tanti approfondimenti li trovate questa mattina sul Sole 24 Ore, ma noi vorremmo entrare subito nel merito della manifestazione che ci ospita Luci sul Lavoro, che si è aperta ieri pomeriggio ufficialmente con la presenza del ministro del lavoro Giuliano Poletti e che ci ospita appunto nella bellissima cornice di Montepulciano. Come ogni anno un programma ricco, noi questa mattina ne parliamo con Gianni Arrigo, professore di diritto del lavoro all'Università di Bari, ma soprattutto in questo contesto è presidente di EIDOS, l'Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali, che fra le figure gli enti organizzatori di questa manifestazione. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno. Era con noi anche lo scorso anno a farci quello che a me piace definire il biglietto da visita della manifestazione. La vogliamo ricordare in che cosa consiste questa iniziativa a beneficio degli ascoltatori, soprattutto dei giovani ascoltatori che magari l'anno prossimo potrebbero accarezzare l'idea di farsi una scampagnata in Toscana per vedere che aria tira nel mercato del lavoro? Sintetizzando, è un'iniziativa culturale, specialistica ma aperta. In genere le nostre manifestazioni, i cosiddetti festival o altri che chiamano eventi, quindi generalizzando una parola che avrebbe un significato molto limitato, sono per esperti e sono chiuse. Si entra con un cartellino chiamato badge, si viene riconosciuti come esperti e si partecipa in prima fila. Questa è aperta alla comunità, perché il lavoro è della comunità, la comunità vive nel lavoro e del lavoro. Quindi la differenza rispetto ad altri più paludati formalmente è che essa è aperta. Quindi in una comunità particolare come Montepulciano il pubblico entra, partecipa. All'occasione, se riesce a superare le file, ha anche diritto a un cocktail, a gustare il vino, il nobile vino di Montepulciano, e partecipa. Che è quello che ha un invecchiamento di almeno 5 anni, l'ho appreso ieri sera. 5 anni come, è quella, come la manifestazione vero, ha 5 infatti. Anni. Quindi dall'anno prossimo sarà luci sul lavoro nobile. Abbiamo superato il lustro, siamo lustrati con questo lustro. Ora, gli ultimi 5 anni li abbiamo passati con l'importante collaborazione di Italia Lavoro, con il suo presidente Paolo Leboani. Speriamo che i prossimi 25 li passeremo con il professor Del Conte. Un'occhiata d'intesa con il nostro prossimo ospite che fra un attimo presentiamo. Che cosa I temi sono anzitutto quello del coinvolgimento diretto nei temi delle parti sociali, che spesso forse nelle altre manifestazioni vengono pretermesse, vengono messe un po' da parte, forse perché si presentano sudaticci o forse perché sembrano quasi contrastare un indirizzo. Cioè, ultimamente c'è stato un appannamento della partecipazione degli attori collettivi anche non solo alla costruzione delle norme, anche per loro problemi, anche per una loro responsabilità. Parla del mondo sindacale? Sindacale e datoriale, le parti collettive sono entrambe. La responsabilità non è soltanto di una parte, ma anche dell'altra, perché esse costruiscono la contrattazione collettiva, esse sono gli attori del dialogo sociale, che è la fonte poi di una serie di norme, di normative, di regolazioni. E quindi partecipano le parti sociali ai vari livelli, non soltanto a livello nazionale ma anche europeo. In questo momento si sta svolgendo un importante convegno sulla ricostruzione, il rafforzamento del cosiddetto pilastro sociale, con la presenza del segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Luca Visentini, e di altri importanti esponenti di quel dialogo. Professor Arrigo, EIDOS, invece ricordando ancora l'organizzazione che lei presiede, è nata nel 2002 su iniziativa di un gruppo di docenti universitari, esperti e avvocati interessati alle tematiche del lavoro, in particolar modo nella loro declinazione e dimensione europea ed internazionale. I fatti che stanno avvenendo da qualche settimana a questa parte immagino che vi interessino molto. Il referendum sulla Brexit sta mettendo, il risultato elettorale che ne è venuto fuori, il referendario, ha messo in discussione un po' molti capisaldi di questa Unione Europea, che aveva già manifestato più volte tutte le sue fragilità in tanti momenti e che continuano a venire allo scoperto. Cosa rischiano i giovani lavoratori italiani che ormai sono pienamente abituati alla flessibilità del lavoro e a cui continuiamo a chiedere anche di avere un approccio più ampio in termini geografici, di non avere paura di spostarsi, di andare in giro per l'Europa e per il mondo? Cosa potrà cambiare, secondo lei, per la circolazione di capitale umano con gli effetti di questo referendum? Distinguiamo il brevissimo periodo, dove c'è l'ansia e la paura di qualcosa che invece dal punto di vista istituzionale deve essere definito. Il medio periodo e poi invece il lungo periodo. Dipenderà dalla scelta che il Regno Unito vorrà fare nel suo rapporto con l'Unione Europea. In questo momento è ancora membro dell'Unione Europea e lo sarà fino a quando non verrà definito in base all'articolo 50 del trattato, non dico quale perché altrimenti entriamo in crisi, verrà definita la procedura di uscita del Regno Unito, il quale potrà anche ripensarci in base all'articolo 49, potrà rientrare. Ora, il problema è questo, nel momento è tutto congelato, nel senso che si mantengono questi diritti. Credo che però un po' separati in casa, un po' separati in casa, che però si io comunica, sono la donna di cuore, quindi si mi comunica, piace, no? Utilizzano ancora l'Eurotunnel, poi si chiamerà tunnel, non si chiamerà più euro, ma e a parte queste battute, credo che gli effetti negativi siano maggiori per gli studenti inglesi che per gli studenti europei, perché se sceglieranno uno statuto simile a quello della Norvegia, costerà moltissimo sia al Regno Unito sia ai ragazzi partecipare della grande libertà di circolazione. Tempo fa uno studioso norvegese segnalava come i costi connessi al trattato, sia attraverso il trattato europeo fra la Norvegia e il Regno Unito e l'Unione Europea, sia attraverso l'Associazione Europea di Libero Scambio, costasse per le stesse prestazioni molto più di quello che costa invece l'appartenenza all'Unione Europea come membro a pieno diritto. Questo è un vero problema, considerando fra l'altro che il Regno Unito non è l'Inghilterra, è l'Irlanda del Nord, Galles e Scozia, con diverse discipline normative, con diversi gradi di istruzione, di interesse per gli studenti alla mobilità. Questo è il vero danno. Certo. Credo che sia maggiore, infatti anche nei giornali inglesi è stato segnalato che questi danni sono maggiori per gli studenti britannici che per gli studenti europei. Per professor Arrigo, grazie per essere stato con noi. Per il momento, quello che volevo dire è comunque ancora molto presto poter disegnare degli scenari, appunto sapremo solo nei prossimi mesi che strada prenderà questa nuova storia che stiamo scrivendo in questi giorni, però insomma qualche cosa è già possibile metterla così in testa, in evidenza. Grazie molte per essere stato con noi. Adesso possiamo ridare la linea a Milano, abbiamo velocemente i suggerimenti per chi è in viaggio e poi ritorniamo invece a Montepulciano. A tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale. In Italia la maggior parte dei contratti di lavoro si attiva per relazioni personali, conoscenze, e questo provoca un'emarginazione dei soggetti più deboli, non premiando il merito. Chi si ricorda chi aveva pronunciato queste parole? C'è il colpevole qui di fronte a noi. Buongiorno e benvenuto al professor Maurizio Del Conte, presidente di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Buongiorno a voi. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Cuore e Denari. Aveva detto questa frase intervenendo proprio nel nostro programma qualche mese fa in occasione dell'Employers Day, che era appunto tutta una grande iniziativa con il quale avevamo appunto preso l'occasione proprio per farci venire a raccontare a che punto fosse l'attività di ANPAL, che è l'agenzia istituita dal Jobs Act con il compito di attuare le linee di indirizzo fissate dal Ministero del Lavoro in materia di politiche attive. E quindi è una macchina che si sta mettendo in moto, sta gestendo tutta questa organizzazione appunto il professor Del Conte. Io tra l'altro volevo anche raccontare ai nostri ascoltatori, anzi invitare tardi ad intervenire in diretta all'800 24 00 24, se volete raccontarci per esempio la vostra esperienza, come avete già fatto ieri con il centro per l'impiego della vostra città, come è andata, come siete seguiti. C'è un gran dibattito sull'utilità di queste strutture, come è noto, e a volte anche molte derive polemiche che hanno anche avuto la loro ragione di circolare. Però, professor Del Conte, andiamo subito alla ciccia perché abbiamo per adesso solo 4 minuti, poi la trasferisco nella seconda parte del programma. Identikit velocissimo di ANPAL, poi faremo il punto su tutti i provvedimenti che ne stanno dando l'operatività. ANPAL è un'agenzia su un modello europeo, un'agenzia nazionale che si occupa di mettere in rete tutti i soggetti dei servizi per il lavoro. Qualcosa che non abbiamo mai avuto nel nostro sistema, qualcosa che non potevamo più permetterci il lusso di non avere, perché come ricordava lei prima, ma sono dati abbastanza preoccupanti, circa il 97% degli italiani disoccupati quando cercano un lavoro si rivolgono a conoscenze informali. Questo significa che di fatto non abbiamo un mercato del lavoro minimamente istruito, non abbiamo un mercato del lavoro dove ci sia un soggetto che dispone delle informazioni fra domanda e offerta, non abbiamo qualcuno che è in grado di controllare i flussi della domanda e dell'offerta del mercato del lavoro. ANPAL ha questa funzione, ha la funzione di creare questa rete, di mettere in condivisione le informazioni e di attuare delle misure concrete, come per esempio l'assegno di ricollocazione, che è una misura che va direttamente al disoccupato, lo prende in carico, lo accompagna verso una nuova occupazione. Che so che è la misura alla quale lei forse tiene più di tutte. È la misura della quale potremo disporre a livello nazionale per la prima volta, al di là delle misure che restano e sono quelle regionali, che però sono fondamentalmente dirette a aumentare la formazione del disoccupato. Questa sarà una misura standard alla quale si potrà rivolgere direttamente il disoccupato iscrivendosi al sito dell'ANPAL, facendo domanda e ricevendo questo buono da utilizzare dove lui sceglierà. Iscrivendosi al sito dell'ANPAL, so che ieri avete fatto anche un punto proprio nell'evento inaugurale qui di Luci sul Lavoro sull'informatizzazione, che è una base fondamentale per il pieno funzionamento di ANPAL, e poi magari ci racconterà a che punto siete. Le faccio sentire invece, passato a trovarci per un attimo prima di venire a fare il taglio del nastro, il ministro del lavoro Giuliano Poletti, e io ho fatto dire a lui, insomma, ANPAL a che punto è, sentiamolo. Siamo ad un buon punto perché sostanzialmente abbiamo messo in movimento il primo passaggio di personale, il che significa che poi avremo le persone che fanno le cose. Io capisco le aspettative, ma credo che bisogna anche cogliere il dato che stiamo facendo un'operazione molto complessa e molto importante. Praticamente trasformiamo il Ministero del Lavoro, spostiamo un numero di persone rilevanti che hanno bisogno di avere un altro mestiere, che avranno bisogno di avere specifiche competenze. Ci sono dei passaggi che la legge prevede e non è nostra facoltà saltarli, la democrazia prevede anche queste cose, quindi bisogna usare al meglio il tempo che si ha, noi lo stiamo usando al meglio, credo che nelle prossime settimane ANPAL comincerà a sviluppare la sua azione. Ecco, proprio a proposito delle risorse di cui avrà bisogno ANPAL appunto per diventare pienamente operativa, come ci preannunciava il Ministro, proprio ieri è arrivato il provvedimento del Consiglio dei Ministri che vara il primo trasferimento di dipendenti da ISFOL e Ministero del Lavoro ad ANPAL. Però anche qui una procedura, professor Del Conte, che richiederà qualche mese per poter individuare questo stock di 217 prime persone che verranno da voi, giusto? Sì, è una procedura abbastanza complessa perché si chiede a delle persone di cambiare sostanzialmente casa, passare dal Ministero, da ISFOL verso ANPAL. Noi cerchiamo di farlo su base volontaria il più possibile, in modo che ci sia davvero entusiasmo verso questa nuova missione. Benissimo, allora intanto piano piano siamo arrivati allo stop della prima parte del programma, adesso andiamo a Milano ad ascoltare il giornale radio e poi ritorniamo insieme a Maurizio Del Conte, ad a Nicoletta, naturalmente a me e tutto lo staff tecnico che ci supporta qua. Vi aspettiamo, andiamo. A tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Cuore e denari. Sono precario, lo so. Quello che posso darti, amore, ti darò. Senza brillanti. Siamo in diretta da Montepulciano, dove è in corso la manifestazione Luci sul Lavoro, e questa mattina abbiamo invitato a raccontarci a che punto è l'operatività di questa agenzia il presidente di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nata su iniziativa del Jobs Act. Un ascoltatore chiede: potete dire lettera per lettera come si chiama la nuova agenzia? Con lo spelling. ANPAL, esatto, Ancona, Napoli, Palermo, Ancona, Livorno. Quindi, professor Del Conte, anche questo stamattina giustamente abbiamo dovuto fare, anche perché poi operativi al 100% non lo siete ancora, ma mese dopo mese si aggiungono i tasselli legislativi mancanti a farvi diventare appunto pienamente operativi. Prima abbiamo spiegato che cosa conteneva il decreto di trasferimento del personale dai vari enti che appunto poi vi appunto forniranno personale per farvi partire presumibilmente dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Un altro tema importante è la riorganizzazione dei centri per l'impiego, che farà capo a voi, e però qua c'è invece il referendum costituzionale di mezzo, appunto, di ottobre, professor Del Conte, che in qualche maniera potrebbe dirà la sua e di conseguenza poi inciderà anche sulla vostra attività. Prima di quella data, prima della data del referendum, non è possibile fare nulla perché sono le regioni che intervengono in quella materia. Sì, è vero. I centri per l'impiego oggi sono, fanno riferimento alle regioni per il riparto di competenze appunto contenuto nella Costituzione attuale. Però devo ricordare che il disegno riformatore appunto che ha creato l'agenzia e che ha creato questo nuovo capitolo delle politiche attive del lavoro si muove dall'attuale assetto costituzionale, quindi non è che abbia bisogno di attendere il referendum per sapere quale sarà l'assetto dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego oggi lavorano in capo alle regioni o in capo alle province, e quel che cambia è che si devono mettere in rete fra di loro e con l'Agenzia Nazionale. Quindi ad oggi non lo sono, non comunicano tra di loro. Paradossalmente quello che capita in Lombardia, il Piemonte non lo sa, il Veneto non lo sa, e andando giù a scendere. La cosa è ancora più grave, perché purtroppo quello che sa una provincia non sa l'altra provincia. Molto spesso ci troviamo di fronte a centri per l'impiego che operano a pochi chilometri l'uno dall'altro e che non sono in grado di offrire un posto di lavoro che si trova nell'altra provincia. Prima parlavamo di mobilità europea, delle capitale umano, figuriamoci, non siamo neanche in grado appunto di trasferire persone magari in cerca di occupazione da Vercelli a Torino, di bicicletta. Esatto, a distanza di bicicletta. E quindi mi pare evidente che sia un problema da superare. Voi potrete farlo in teoria? Noi abbiamo come compito quello di metterli in comunicazione, quindi creare il famoso mercato del lavoro trasparente, per cui attraverso la rete informatica oggi accessibile a tutti, anche attraverso delle app del cellulare, dello smartphone, si possa geolocalizzare il posto di lavoro e il centro per l'impiego sappia esattamente le imprese che richiedono posti, che richiedono professionalità, sappia esattamente i lavoratori che si offrono nel mercato. Certo, io oggi qui proprio a Montepulciano ho fatto un incontro con operatori dei centri per l'impiego. C'è grande incertezza per il loro futuro, per il loro destino, soprattutto per capire chi sarà il loro datore di lavoro finale, ma c'è anche tanto entusiasmo. Io ho visto operatori che sono qui per imparare alla Summer School che è stata organizzata, per mettersi tutti in condivisione a livello di conoscenze e di competenze. È fondamentale che dalla Calabria a Trento si parli lo stesso linguaggio, perché molto spesso è davvero difficile dialogare, perché non si sanno neanche quali siano le misure a disposizione, i fondi a disposizione, e non sono pochi. L'accesso alle risorse europee, prima sentivo che c'era questo tema anche dell'Europa, l'accesso ai fondi europei è fondamentale per sviluppare una rete di servizi efficaci per il lavoro. le risorse ci sono, vanno impiegate utilmente. Allora, quindi dovrebbe cambiare molto. Sentiamo Paolo D'Asco di Piceno se quello che gli è successo teoricamente in futuro non dovrà succedere più a nessuno di coloro che si rivolgono appunto ai centri per l'impiego. Facendo questo necessario preambolo, ci chiamano gli ascoltatori che evidentemente hanno vissuto delle problematicità, sono un po' più restii a chiamarci quelli che invece hanno avuto magari una storia conclusa con successo, anche se in realtà ieri abbiamo avuto la testimonianza di un piccolo imprenditore di Caltanissetta che invece ha avuto un'attività di stretta collaborazione con il centro per l'impiego della sua città e ha potuto assumere delle persone con garanzia giovani proprio grazie alle informazioni che ha reperito lì, e quindi domanda ed offerta si sono incontrati molto facilmente. Paolo D'Asco di Piceno, benvenuto. Grazie di avermi chiamato. Guardi, io molto brevemente vorrei dire questo: io sono arrivato alla conclusione che il centro per l'impiego, perlomeno quello con cui ho avuto l'esperienza, serve per l'impiego, ma di chi ci lavora. No, ma guardi, la sua è tra l'altro una battuta diffusissima, Paolo, non è la prima volta che la sentiamo. Tipicamente sono definiti come proprio le strutture che sono nate e funzionano solo per impiegare chi impiegano effettivamente. Paolo, grazie. E quindi come lei è andato a cercare che cosa? Beh, io dopo essere stato in cassa integrazione in mobilità ho fatto tutta la trafila. L'unica cosa che ho avuto in 3 anni è stata la compilazione di una scheda professionale, tra l'altro fatta senza alcun criterio, perché se io prendo un curriculum e lo faccio secondo i criteri dell'Europass deve essere fatto e ritagliato in base a una offerta di lavoro, quindi per un determinato imprenditore o comunque un datore di lavoro, invece c'era un po' di tutto e le posso assicurare che neanche la formazione è stata fatta, cioè neanche un corso di formazione è stato offerto, ma come me sono stati decine i colleghi che hanno avuto la stessa situazione, tant'è vero che molti hanno provveduto di per conto proprio, cioè attraverso i canali o personali oppure affidandosi a curriculum presentati direttamente alle aziende, cioè offerte di lavoro niente, formazione nulla. Qualcuno mi dovrebbe dire qual è quindi la funzione di queste strutture, e se il buongiorno si vede al mattino e prendono lo stesso personale dovrà essere preparato veramente molto molto molto bene, se no non Paolo, servirà. La ringrazio per la lucidità con cui ci ha rappresentato la sua testimonianza. Professor Del Conte, la portiamo a Roma, mi pare che molto lucidamente ci ha spiegato quello che non funziona in queste strutture, ciò di cui lei è estremamente consapevole, e questo è tutto ciò che deve cambiare. Esattamente. Il nuovo disegno appunto della riforma prevede esattamente l'allineamento dei livelli delle prestazioni a tutto il territorio nazionale, in modo che non si possano verificare episodi come quelli descritti dall'ascoltatore, che si verificano per la verità proprio per mancanza di formazione dello stesso personale, per mancanza magari di risorse, per mancanza di connessione con le imprese, con gli enti di formazione. Purtroppo noi abbiamo assistito negli anni passati alla festa dei formatori indifferenziati, cioè corsi di un pacchetto informatico che venivano somministrati a lavoratori che non avevano nessun bisogno di quel pacchetto informatico, ma che magari erano artigiani, che avevano altre competenze. Quindi è fondamentale questo sviluppo di competenze degli operatori, e la formazione degli operatori sarà uno dei nodi cruciali. Anche per questo si fanno iniziative come quelle della Summer School, ma in realtà Italia Lavoro, che è l'agenzia tecnica che passerà in capo ad ANPAL, sta già erogando una serie di interventi formativi sul personale dei centri per l'impiego, in modo che si portino tutti a un livello standard di qualità e di efficacia nella loro azione. Due domande, professor Del Conte, prima di salutarla. Ad una rispondiamo perché ci scrive un ascoltatore che vuole sapere quando partirà operativo l'assegno di ricollocazione. Poi un altro suo cavallo di battaglia, mi ricordo che ne avevamo parlato anche nel corso dell'altra trasmissione, è il seguente: tolleranza zero su chi rifiuta un'opportunità di lavoro o di formazione. Le lascio il microfono, vada come preferisce. L'assegno di ricollocazione, che è la misura che ricordavamo prima, viene destinata al singolo lavoratore disoccupato, una misura intensiva di presa in carico e di accompagnamento al lavoro, entrerà effettivamente, operativamente, quando avremo realizzato la infrastruttura del portale e la infrastruttura perché informatica. Perché bisognerà attivarsi, far domanda da lì, quindi deve fare in via individuale il lavoratore tra virgolette, che si trova in questa condizione di momentanea non occupazione. E non vi dico le difficoltà per fare un'operazione che io, quando sono entrato, ritenevo un'operazione tecnica tutto sommato non gigantesca, ma invece la difficoltà di accedere alle banche dati, ciascuno si tiene la sua e non la molla fino a quando qualcuno non glielo impone più o meno d'imperio. E quindi questo è un lavoro che stiamo facendo in verità da mesi per avere a disposizione tutte le informazioni necessarie. Per quanto riguarda invece l'altra parte, cioè la condizionalità cosiddetta, cioè il condizionare l'erogazione del sussidio di disoccupazione, la NASPI oggi, al percorso di attivazione nella ricerca di un lavoro, questo è un altro delle caratteristiche di novità del nuovo quadro. Noi non avremo più un sistema di accompagnamento passivo verso la pensione, come è stato in passato, del disoccupato, ma avremo sì certamente un sostegno al reddito del disoccupato, ma vincolato alla sua partecipazione attiva nella ricerca del lavoro, che non deve significare ti lascio da solo nella ricerca di un posto di lavoro, ma che deve significare vieni con me, operatore specializzato, a formarti, a incontrare le imprese, a fare un curriculum, a metterti in gioco in un percorso, certo, che tra l'altro non ti consentirà, bisogna dirlo chiaramente, di percepire un sussidio e magari fare un lavoro nero. Professor Del Conte, allora la strada è tracciata, gli ostacoli non mancano, mi pare che però lei sia piuttosto armato per poterli scavalcare agilmente. L'obiettivo d'altronde è nobile e va assolutamente raggiunto, perché qua le persone in difficoltà sono ancora un po' troppe per i nostri gusti in Italia, per quello che riguarda appunto il loro rapporto con il mercato del lavoro. Grazie per tutto quello che fa per far partire ANPAL, e grazie per essere stato con noi questa mattina. E grazie a voi per questa opera di comunicazione, perché bisogna davvero comunicare, far capire che esiste questa sponda nello Tra l'altro stato. Ad aprile avevamo detto la aspettiamo dopo l'estate per raccontarci come va, invece questo appuntamento è arrivato prima, però dopo l'estate io la richiamo lo stesso, quindi molto volentieri. Grazie. Dorma preoccupato, come si dice. Dormo poco, per grazie molto e buon lavoro. A voi. Allora, noi da Luci sul Lavoro passiamo all'effetto della luce sui nostri occhi e sulla nostra vista. Facevamo colazione. Allora, Deborah, eccomi. Che sia arrivata l'estate, ce ne siamo accorti un po' per il caldo. Ieri sentivamo molte persone a Montepulciano lamentarsi. No, ma sembra un caldo anomalo per questo periodo. Ma io penso che l'8 luglio e il 7 luglio quei 26 gradi siano anche abbastanza ragionevoli comunque, e tollerabili. Comunque qui noi alla Fortezza stiamo al fresco, ma sicuramente è la luce, no? Quella che ci dà l'idea della bella stagione che è arrivata, ed è l'aspetto dell'estate che a me piace di più, ma questo è un dettaglio. Più importante invece, lo faremo oggi, è capire che effetto produce la luce sui nostri occhi, perché ogni anno arriva puntuale la raccomandazione degli oculisti, che alla stessa stregua dei dermatologi per la pelle, ma noi di una dermatologa l'abbiamo proprio sentita ieri, Adele Sparavigna, ci invitano a riparare i nostri occhi dal sole, perché ormai è provato che la mancanza di protezione produce danni sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo. Mm-hmm. Allora, se volete vederci chiaro, restate, perché in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica all'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano e consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Insomma, siamo in ottime mani. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, dottore, voi oculisti vorreste che noi dedicassimo la stessa cura che dedichiamo alla pelle ai nostri occhi, perché la pelle è un pochino più semplice, manda dei messaggi più chiari, reagisce all'aggressione tra virgolette dei raggi solari producendo la melanina che ci regala la bronzatura, ma che in realtà è un vero e proprio meccanismo di protezione. Gli occhi quali meccanismi di protezione hanno? Come si difendono dalla luce? È molto interessante, perché gli occhi non sono tutti uguali. Effettivamente noi abbiamo vari meccanismi di protezione, quindi dalle sopracciglia alle ciglia, alle palpebre, che comunque ci consentono comunque una certa sicurezza nei confronti dei raggi solari. Però oltre a questo c'è anche l'iride, che può essere un iride chiaro oppure pigmentato, e non per ultimo la retina, che può essere più o meno pigmentata, anche lui ha un pigmento che somiglia molto a quello della melanina, e quindi sia il pigmento irideo che quello retinico cambia a secondo se siamo di fronte a un occhio chiaro o un occhio scuro, oppure se siamo di fronte a difetti visivi che possono creare una rarefazione dell'epitelio pigmentato retinico e quindi aumenta la fotofobia. Allora, siamo andati un po' sul tecnico, dottor Lo Perfido, ma la riacciuffo subito per chiederle quali informazioni ha bisogno dei nostri ascoltatori per suggerire anche come proteggersi dal sole, e quindi parleremo degli occhiali da sole, come scegliere le lenti, anche la forma dei nostri occhiali, che scegliamo spesso per moda, invece ci sono delle considerazioni da oggi fare. Oggi c'hai questo tondino tu anche molto intellettuale, cambio, vero? Esatto. Mi cerco di darmi un tono, sai qua? È difficile, allora ho detto provo con gli occhiali. Dottor Lo Perfido, ma oggi vogliamo anche rispondere a tutti i quesiti, tutti i dubbi dei nostri ascoltatori che possono lamentare dei disagi più o meno forti proprio a causa di questa bella luce estiva che in qualche modo può danneggiare e può dare fastidio ai nostri occhi. Gli occhi si arrossano, lacrimano di più, abbiamo un po' di fastidio alla luce. Ci sono persone che indossano gli occhiali da sole appena escono da casa, e ci sono invece quelli che scrivono: ma perché devo mettermi gli occhiali da sole se a me la luce non dà fastidio? Allora, 800 24 00 24 è il nostro numero verde per entrare in trasmissione. Abbiamo ancora qualche minuto prima di lasciare la parola a Deborah, che ci illuminerà sulla situazione per dei mercati. Per fortuna oggi vedo un po' di luce sui mercati. Quindi non meno. Dobbiamo metterci gli occhiali da sole. No, oggi possiamo essere naturali. Dottore, ieri abbiamo parlato di pelle e la nostra esperta ci ha spiegato che i raggi solari arrivano a delle diverse profondità. Alcuni si fermano in superficie, altri penetrano più in profondità. Succede così naturalmente anche per i nostri occhi? Succede così per i nostri occhi. Noi abbiamo delle reazioni immediate ad un irraggiamento eccessivo quando non siamo protetti dagli occhiali da sole, e questi interessano soprattutto la superficie corneale, quindi la cornea, che è la prima lente del nostro occhio, e la congiuntiva, che è la scleda, la parte bianca che circonda la nostra cornea. Entrambe sono interessate da stimoli irritativi che possono essere di intensità diversa a secondo se ci troviamo al mare o in montagna o in collina, e quindi la frequenza dell'ultravioletto e della luce blu possono incidere determinando dei sintomi piuttosto fastidiosi, e in alcuni casi ai sintomi si accompagnano dei veri e propri danni corneali. Allora, li ricordiamo, naturalmente sono immediate l'occhio rosso che brucia lacrima, uno dice beh, vedi, ho preso un colpo di luce prima, e quindi ci sono persone che adesso stanno confrontandosi con congiuntiviti. Dottor Lo Perfido, lei li vede anche naturalmente in ambulatorio, magari dopo una giornata, un weekend al mare, ecco che paghiamo il conto, dottore. Allora, giustamente la congiuntivite è una forma specifica in cui si ha un rossamento e un'irritazione della congiuntiva, che si accompagna anche a un'irritazione molto spesso della cornea. La cornea, come abbiamo detto, è un mezzo trasparente, e quindi la sua trasparenza è determinata dalla idratazione costante della lacrima. Qualsiasi condizione che altera quindi il nutrimento della cornea, e qualsiasi condizione che riscalda la cornea in maniera anomala, può determinare dei bruciori, chiaramente l'arrossamento, perché si cerca di portare nutrimento anche attraverso la lacrima. Quando questa non c'è, l'occhio si arrossa, perché i vasi cercano di dare sostegno a questa realtà, e quindi si accompagnano bruciori, irritazione, voglia di stropicciarsi gli occhi. Perché stropicciandoci gli occhi noi creiamo una lacrima riflessa che ci stimola sensazione di benessere momentaneo. Allora, agli ascoltatori che si ritrovano descritti, invitiamo naturalmente a chiamarci e considereremo insieme al nostro esperto anche i danni che non vediamo subito ma possono arrivare nel lungo periodo, per sottolineare l'importanza della protezione, perché quando ci esponiamo al sole abbiamo paura che l'esposizione ci regali qualche ruga in più. Per la pelle, ma anche per gli occhi dobbiamo avere delle attenzioni. attenzione, perché come ci ha spiegato il dottor Loperfido, anche le strutture più interne del nostro occhio possono essere offese dai raggi solari. Non a caso, ad esempio, dottor Loperfido, rapidamente prima dei mercati, a farne le spese può essere il cristallino. Non a caso vedete e constatate che l'età dell'insorgenza della cataratta sta diminuendo, cioè sempre più persone giovani. La cataratta si pensava fosse un problema per le persone anziane, invece sempre più giovani devono sottoporsi all'intervento per sostituire questo cristallino che si opacizza, proprio perché non si sono adeguatamente protetti, non hanno investito in prevenzione. Dottor Loperfido. Sì, è vero, perché o si investe troppo tardi in prevenzione, o si investe in maniera discontinua, oppure si sottovaluta ampiamente, come spesso succede nei bambini, e quindi il non proteggere fin dall'età scolare i nostri occhi induce ad un danno di accumulo nel tempo, per cui le proteine del nostro cristallino si denaturano molto prima e quindi la denaturazione corrisponde a un'opacizzazione del cristallino. E volevo anche sottolineare un particolare, visto che hai parlato della pelle. Quando noi siamo al sole e non abbiamo un occhiale di protezione adeguato, tendiamo a stringere gli occhi per difenderci dalla fotofobia, e lì, sì, ahimè, aumentano le zampe di gallina. Quindi l'occhio ha la sua parte di protezione, ma anche per la pelle. Ecco, vedi, spendono tutte le frecce che hanno al loro arco per invitarci a proteggere gli occhi con delle lenti adeguate. Avete pensato di acquistare per questa stagione degli occhiali da sole? Restate, se naturalmente li avete già in borsa a portata di mano, osservateli con noi subito dopo i mercati, perché chiederemo naturalmente al dottor Loperfido di raccontarci, di darci gli strumenti per capire se gli occhiali da sole che indossiamo sono adeguati e fanno il loro lavoro. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Carlo Genta, tu cosa ti prendi, Francia o Portogallo? Io mi prendo la Francia, che gioca in casa per quest'ultimo atto degli europei, che racconteremo attraverso i microfoni di Radio 24 domenica sera con te, Giovanni Capuano. Chi ti prende a proposito? Io mi prendo il Portogallo, è banale dire la Francia, ogni tanto devono vincere anche gli sfavoriti. Dalle 21 domenica sera su Radio 24, ovviamente con Pierluigi Pardo, tutti convocati. Vi aspettiamo. Cuore e denari. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Beh, gli occhiali da sole infatti danno, regalano un certo fascino. Ah sì, guarda un po' Elena che si è messa gli aviator adesso, com'è affascinante la nostra Elena Ligios. Bella, come sempre. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Loperfido, che vede, anche Battiato gli ha dato una mano, dottor Loperfido. Dottore, buongiorno. Qui. Buongiorno. Siamo qua. No, dicevo che anche Battiato le ha dato una mano nel promuovere gli occhiali da sole, quindi è quello che facciamo noi oggi, dando ai nostri ascoltatori delle indicazioni per acquistare l'occhiale giusto, verificare se quello che hanno stanno indossando va bene per le loro esigenze. Ma, dottor Loperfido, mi deve dare due consigli rapidi per chi in questo momento si ha un problema di rossore, lacrimazione, si sente gli occhi un po' con la sabbietta, alla congiuntivite, insomma. Che cosa bisogna fare e che cosa bisogna evitare assolutamente di fare, dottore? Allora, quello che bisogna fare è se il bruciore e la lacrimazione è conseguente appunto di una irritazione dovuta al sole, chiaramente bisogna avere con sé un occhiale che sia veramente adeguato a proteggersi. Se andiamo in montagna, al mare, l'occhiale può essere differente, perché differente sono, sì, le altitudini, e differente l'ultravioletto. Ma di questo ne blu parleremo. Ma io ho male agli occhi, ho gli occhi rossi, mi lacrimano, mi bruciano, e dico: che cosa faccio? Lo chiedo a Deborah, non lo sa, ecco, e io voglio un consiglio da magari lei. Che cosa, che cosa metto, dottore? Poi andiamo alle lenti. Perfetto, quello che uso sono innanzitutto delle lacrime artificiali, ci sono delle lacrime sostitutive che non devono essere comunque vasocostrittori, ma devono agire solamente nel lubrificare enormemente la superficie oculare, perché lubrificandola non solo la idratiamo, ma anche la nutriamo, certo, perché la cornea vive grazie alla lacrima. Quindi il primo concetto è quello. Secondo, quello di non stropicciare gli occhi, perché questo non va mai fatto, perché quando stropicciamo le nostre palpebre creiamo dei fattori irritativi tra palpebra e cornea e quindi aumentiamo le abrasioni corneali. Quindi se io avverto la sensazione di dovermi stropicciare gli occhi qualche cosa, questo è già un segnale che i miei occhi mi mandano, è corretto? Sì, il fatto che noi desideriamo stropicciare gli occhi vuol dire che ci sono dei fattori irritativi che possono essere o legati a fattori ambientali, oppure possono essere legati alla nostra lacrima che può essere scarsa, oppure all'uso scorretto di una lente a contatto in un periodo estivo, perché anche qui si apre un bel capitolo. E allora tutto questo, quando ci induciamo a strofinare gli occhi, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel metabolismo e nel meccanismo di protezione dei nostri occhi. Ecco, noi raccomandiamo sempre a tutti gli amici che lavorano tante ore davanti al PC di ammiccare, soprattutto in questo periodo quando c'è anche l'aria condizionata, che, da cui abbiamo dedicato una puntata, che disidrata un po'. Ricordatevi un po' come suggeriscono i medici dello sport, i fisioterapisti suggeriscono di sgranchirci un po' le gambe. Bene, dobbiamo anche un po' ammiccare proprio per creare ancora di nuovo quel film lacrimale che è essenziale, un po' per i nostri occhi, un po' come la saliva per la nostra bocca. Dottor Lo Perfido, in questa stagione tornano anche molte persone avvertono con maggiore intensità il problema di quelle macchiette che vediamo, vermicellini, macchiette nere, lucioline, le mosche volanti, Deborah dice le lucioline, perché soprattutto quando passiamo dall'esterno molto luminoso, torniamo in casa, ecco che appaiono di nuovo queste moschine. C'è qualche cosa da fare oltre a idratarci e quindi bere, dottore? Bere acqua è fondamentale. Consideriamo che quelle mosche volanti, che vengono definite così, comunque sono dei corpi che hanno mobili. Un nome, vero? Hanno un nome vero? Sì, hanno un nome vero. Sono, il paziente le definisce sempre come mosche volanti o corpi mobili. In realtà sono miodesopsie determinate da aggregazioni all'interno del vitreo. Il vitreo è una massa fluida e omogenea come il miele tra la retina e il cristallino. Con l'età già tende a degenerare, ma soprattutto se beviamo poca acqua o stiamo esposti a fonti di calore molto elevate, questo vitreo tende a disgregarsi e a formare dei piccoli corpi mobili al suo interno. Quando questi corpi mobili tagliano la luce, trasmettono un'ombra sulla retina che è quella che noi vediamo come corpi mobili e ci danno molto fastidio. Le vediamo sulle fonti chiare, sul muro bianco, oppure se guardiamo verso il cielo terso. Quindi una delle condizioni maggiori, soprattutto poi con la terza età o quando ci sono difetti visivi, è di bere veramente molta acqua e di proteggersi enormemente gli occhi con degli occhiali adeguati. Non basta avere un occhiale da sole qualsiasi, cioè una rondine non fa primavera, un occhiale non risolve il problema. Occorre un occhiale specifico a secondo se c'è un difetto visivo oppure a secondo se siamo esposti a raggi piuttosto elevati come in montagna. Dottore, Deborah ha detto lucine. Ecco, quando un oculista, noi diciamo, vedo delle lucine, l'oculista ci guarda con particolare attenzione, perché ci sono le luci, le lucine e i lampi. Sono dei segnali che ci raccontano esattamente che cosa sta succedendo nell'occhio, perché ci sono delle differenze tra questi sintomi, dottore. Enormi differenze. Allora, il vitreo, come abbiamo detto, è una parte mobile all'interno del nostro occhio, tra retina e cristallino, ma il vitreo è aderente alla retina. Si possono creare delle condizioni particolari di vitreo che è così aderente al piano retinico che quando noi muoviamo l'occhio, il vitreo nel suo movimento trascina e mette in vibrazione il piano retinico. E quindi, come toccando l'accordo di una chitarra emette segnali sonori, così la retina emette segnali luminosi. Quando si ha un'intensità di segnali luminosi che possono arrivare a veri e propri lampi, c'è il rischio che il vitreo, tirando sempre sul piano retinico, possa creare delle micro rotture e quelle possono essere poi causa futura di distacco di retina. Quindi mai sottovalutare dei sintomi, perché questo un è sintomo importante. È molto molto importante non sottovalutarlo, perché in quel caso va sempre visto il fondo dell'occhio, perché può essere solamente un movimento vitreale che determina dei sintomi oppure può essere l'inizio di un problema molto più serio. Allora, se vedete luci e lampi, attenzione, non sottovalutate questo segnale, perché potrebbe essere un segnale che arriva dalla retina, e quindi è importante che, se vedete le mosche e le moschine, non ci preoccupano tanto, ma le luci e i lampi devono spingerci a fare una visita oculistica. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi tirate fuori i vostri occhiali da sole, diteci anche se state correggendo un disturbo visivo e tutte le domande al nostro esperto tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti, occhi belli e impazienti, due sparvieri... Mi ero perso il microfono, vedi? Cioè, allora, per fare Milano, un po' la Milano scena, non lo accende. Per mettermi due occhiali da sole, uno quello tondo, eccetera, va bene, perché sono un po' cialtrona. Ma intanto il dottor Lo Perfido non mi vede, e quindi occhio non vede, cuore non duole. Esatto. Allora, Lo Perfido invece, non sgrida. Dottore, iniziamo a scegliere gli occhiali da sole. Cercando di aggiungere, sappiamo che dobbiamo sceglierli di buona qualità, che non dobbiamo comprarli sulle bancarelle, che gli occhiali da sole sono una vera e propria prevenzione. Anche l'associazione degli oculisti, no, americani sottolinea nel decalogo della prevenzione della vista, salva vista, proprio questo aspetto. Iniziamo dall'ABC, dottor Lo Perfido. Allora, scegliamoli bene, scegliamoli di qualità, evitiamo le bancarelle, andiamo a vedere il marchietto. Ma ci si può fidare del marchietto CE? Non ci sono, no? Non è che ne prendiamo, leggiamo lucciole per lanterne? Il marchio CE è un marchio di protezione, chiaramente è un marchio importante, sì, della Comunità Europea, da ben differenziare da un altro marchio. Bravo, ecco, andiamo a vedere l'altro che può trarci in inganno. Ecco, lei. Infatti, perché mentre il marchio CE europeo, c'è una distanza quando questo marchio noi lo guardiamo o sulla stanghetta o sulla montatura, comunque questo marchio CE è alla stessa distanza, c'è una distanza ben definita tra la C e la E, cosa che ci mette molto in sicurezza, perché quella corrisponde proprio al marchio della Comunità Europea. A differenza invece del un altro marchio, che è quello cinese, il Chinatown, si può dire, che è quello proprio China Export, quindi che è quello che proprio è identificato di un altro tipo di provenienza del materiale, e la C e la E sono molto molto più ravvicinati. Quello, quindi, diciamo, occhio alla distanza, questa è la quindi prima... Occhio alla distanza, sicuramente sì. Ecco, poi gli occhiali devono essere accompagnati da una nota informativa con tutti i dati relativi alle loro caratteristiche, come ad esempio la categoria dei filtri solari. È molto semplice ed è intuitivo, vanno da 0 a 4, la categoria 3 è indicata per il pieno monsolo e la 4 per la montagna in alta quota e le superfici riverberanti. Che cosa può aggiungere però a beneficio dei nostri ascoltatori? Beh, innanzitutto che oggi la tecnologia avanzata, bisogna distinguere che l'occhiale da sole, nella comune idea di tutti quanti, che quando più scuro è l'occhiale, più protegge. Ecco, infatti Pietro Lacorte ha degli occhiali molto scuri. Sembra infatti, Blues Brothers. No, ma perché lui con i ricci un po' ramati, l'occhiale nero va... Qua. Siciliano è sempre siciliano, insomma. Dottore, scusi, l'abbiamo interrotta. Ci prego. Dica. E quindi che succede? Che in realtà non è proprio così. Esistono gli occhiali scuri che proteggono, ma non è la lente scura o meno, ma è la qualità della lente. Quindi quando noi andiamo presso qualche centro specializzato, indubbiamente dobbiamo chiedere un tipo di lente che sia veramente adeguato dove andiamo, perché in alta montagna occorrono che le lenti siano curve, perché ci evitano anche dei riflessi laterali, che essendo curve non abbiano delle aberrazioni, perché quando la lente non è perfetta e noi guardiamo un oggetto e muoviamo il nostro occhiale, se vediamo che l'oggetto si muove, vuol dire che quella lente ha delle aberrazioni, quindi non è perfetta. Allora, quindi lei ci sta dando una specie di test per provare se l'occhiale va bene, quindi dobbiamo indossarlo e vedere se può fare questa prova. Più che indossarlo, averlo in mano e muovere la montatura davanti al nostro occhio fissando un oggetto. Se l'oggetto si ondula, vuol dire che quella lente ha delle aberrazioni. È chiaro che la lente curva ha più rischio rispetto alla lente piana di avere delle aberrazioni. Quindi più curva la lente, più deve essere otticamente perfetta. ma la lente curva ci protegge in montagna anche dai riverberi laterali o dal vento. Quindi montatura lì dove curva si formano poi le zampe da gallina che lei così gentilmente ci ha ricordato, vedi? Perfetto, vedi sì. Che se la ride. Sì, esatto. Ecco, per cui l'occhiale, adesso lei dice curva, poi è mascherina, dottor Loperfido. No? L'occhiale si chiama mascherina, ma per noi ha delle diverse curvature. Vabbè, ma sì, perché ma insomma, delle tanto basi, per parlare la stessa lingua. Mm? Ecco, ha delle basi particolari, perché una lente curva, quindi la mascherina, può avere base 6, base 9, può essere curva diversamente, quindi a mascherina diversamente, se vogliamo. E questa curvatura incide sulla perfezione della lente. Senta, dottore, ma lei ha detto che ha sfattato un luogo comune e che vuole che la lente più scura protegga più di quella chiara, no? Però, proprio a proposito di colore, chi non ha problemi di vista può scegliere il colore delle lenti a suo piacimento, mentre chi ha problemi refrattivi è bene che ricordi che il colore può fare la differenza, è corretto? È molto corretto. I miopi, soprattutto i miopi elevati, gestiscono molto meglio una lente colorata in marrone, mentre gli ipermetropi preferiscono ipermetropi non solo, ma astigmatici ipermetropi, come i miopi astigmatici. Comunque gli astigmatici ipermetropi preferiscono una lente che è sul grigio-grigio-verde. Ci sono dei casi particolari in cui abbiamo notato che soggetti con alte ipermetropie, con lenti marroni, arrivano perfino ad avere nausea o mal di testa. Quindi il rapporto tra tipo di lente, colore della lente e difetto visivo è molto molto importante. Allora andrei da Nicole che ci chiama da Mantova. Adesso qua non so che cosa si stanno facendo tutti i selfie con Deborah, si sta selfando con un'altra cosa. Allora Nicole da Mantova, sì, intanto ci ha raggiunto proprio negli ultimissimi minuti di Cuore Denari da Montepulciano. Nicole, buongiorno, giovanissima. Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'ascolto. Allora, volevo sottoporre una questione all'esperto, una questione per cui neanche il mio oculista mi ha dato una risposta chiara. Allora, io premetto che ho degli occhi sensibili, sono stata operata di miopia qualche anno fa e quindi porto sempre occhiali da sole e cerco sempre di proteggermi. Però mi è capitato più volte, mi è capitato più volte dopo aver fissato una fonte di luce che possa essere anche semplicemente lo smartphone, quindi non una fonte accecante. La luce blu però? Che sia anche una lampadina, comunque mi parte un bagliore che si propaga per tutta la vista e mi dura anche una mezz'ora in cui io non riesco più a vedere nulla. E l'oculista mi ha detto che potrebbe essere stanchezza, così via. Una mia amica invece mi ha suggerito che possa trattarsi di una carenza o di acqua, di sali minerali, non so cosa sia dovuto, però insomma... Volevo chiedere un parere. Allora, perché sentiamo se il nostro esperto ce la fa in meno di un minuto. Un minuto, 30 secondi, 40 secondi, vada. Noi tra la luce e il buio abbiamo una proteina particolare che si chiama rodopsina, che è una proteina che si scompone e si ricompone tra il luce, in condizioni di luce e di buio. Molto spesso la persistenza di condizioni di recupero della visione perfetta molto è un po' più rallentata, lenta. A volte ma quindi Nicole, è un problema oppure se lo tiene in sostanza? Ecco. Dottore? La ricerca della vitamina A, per esempio. Non sentiamo più bene il dottore, mi scusi dottore. Nicole, ha un problema o non ce l'ha? Così ci salutiamo e Nicole sta tranquilla. Allora, il problema non ce l'ha, non è un problema, qualcosa che si può risolvere rivalutando l'assetto proteico e l'assetto delle vitamine, soprattutto la vitamina A. È un problema di vitamine, Nicole, di gioventù forse. Ecco. Un saluto a Nicole, salutiamo il nostro esperto, abbiamo un elenco di persone da ringraziare. Ringraziamo per Montepulciano Pietro Lacorte, Elena Ligios, Alessio Petrucci, poi da Milano Silvi Boccalini, Marco Lombardi e soprattutto tutta l'organizzazione di Luci sul Lavoro e l'amico Alessandro Vaccari che ci ha custodito qua. Come delle regine. Arrivederci a tutti. Grazie, alla prossima.